جور گچه بنر چرخا جهان زور گریدانم مره زور جن چونم پیش برده خوینه ندی قلم گش چونه جور گچه مدو غزن بمره وارن شوره دلو هم دو غزن بمره وارن جنگه گچه مدو غزن بمره وارن شوره دلو هم دو غزن بمره وارن جنگه в дверь открытую, а я

diciamo, una cosa molto importante nelle cantanti di donne, nelle canzoni di donne, Aretha Franklin, che chiede il rispetto in 67. E dunque canti di protestazione, ma anche protestazione in diretta, come l'hanno fatto una migliaia di donne all'inizio settembre, che hanno passato due notti e un giorno sul sito dell'impianto nucleare di Kudankulam in India. Anche se la polizia ha provato a mandarle via, ha fatto intimidazione usando dei bastoni, loro sono rimaste, hanno resistito e sono rimaste fino al momento in cui hanno deciso di andare via. Le donne del Kudankulam sono i principali leader del movimento, infatti la maggior parte di loro vivono della pesca e hanno dovuto sviluppare una capacità organizzativa e molte analisi sulle questioni di politiche energetiche, perché le radiazioni, i pericoli del nucleare e l'impatto ecologico sarà direttamente vissuto da loro sulla loro attività professionale. Dei gruppi di donne hanno anche viaggiato attraverso la provincia, anche fino a Delhi, per dare visibilità al loro movimento. Questo lo scrive nel sito Feminist India, Linda Ramdas, che è un'attivista antinucleare, e diceva: io ho rapporti con tutta la gente che si mobilizza contro il nucleare e volevo fare conoscere questo movimento portato da tante donne, e questa cosa è un movimento molto importante in questo momento. Si continua a livello musicale con canzone che anche parlano di rivoluzione, come questa Rebel Girl del 98, dal 91 di Bikini Kill, In Her Kiss I Test the Revolution. Nel suo, nei suoi baci ho avuto il gusto della rivoluzione. Rebel Girl. E poi in 66 Nina Simone cantava una canzone per quattro donne. Una è una schiava, Aunt Sarah, che era stata picchiata. Una, un'altra che è la figlia di uno stupro, per questi stupri che volevano riprendere, fare cambiare i colori, no? E lei si chiama Safronia, e un'altra che è una prostituta, e una che si è ribellata, che si chiama Peaches. Nina Simone, Four Women. Hello. Aunt Sarah. am. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. My skin is tan, tan. And my hair's all right. It's fine. But my hips invite you, daddy. And my mouth is like wine. Whose little girl am I? Why yours if you've got some money to buy? What do they call me? Sweet andiamo in Togo dove nell'ultimo agosto le manifestazioni si sono moltiplicate infatti dalle anni 90 il paese vive una crisi sociopolitica cronica e questa cosa ha aggravato le condizioni di vita delle donne. Tutte le operatrici economiche che sono specializzate nel commercio e che hanno soprannominate Nana Benza perché avevano delle limousine, quelle sono scomparse del paesaggio economico togole. Le donne sono dunque le prime vittime del periodo di decrescita, di crisi in Togo. E le togolese si sono messo a spingere un po' di più le manifestazioni. Le donne del collettivo Salviamo il Togo hanno deciso di andare un po' più velocemente e di fare un colpo in modo di spingere l'intera popolazione a manifestare. Come hanno fatto? Una cosa da cui avevamo già parlato è stato di fare un sciopero del sesso. E la seconda cosa che hanno fatto, e questo era l'anno scorso, quest'anno durante una manifestazione hanno abbassato i pantaloni. Questa cosa nel Togo non si fa, questa cosa è stata molto mediatizzata perché molto provocatrice e ha permesso di mettere a punto la visibilità della situazione economica delle donne in Togo. Allora, prendiamo, visto che ritorniamo negli anni 73 negli Stati Uniti, quando Betty Davis canta il suo anti-love song. No!

diventata famosa nell'intero mondo per le manifestazioni che fanno a tete nude. E noi abbiamo capito che nessuna vuole veramente fare attenzione ai problemi delle donne, spiega Ina Chef Kenko, che del collettivo. Ma questo è diventato molto diverso quando abbiamo deciso di manifestare nude, e questo è diventato il nostro modo di combattere. Le femmine si sono già, cioè, abbiamo già sentito parlare di loro, per esempio durante l'Euro del football in 2012 in Polonia e in Ucraina, quando hanno denunciato la prostituzione, anche per i giochi olimpici a Londra. Avevano anche manifestato davanti all'appartamento di Dominic Strauss-Kahn a Parigi. E questa apparizione, secondo loro, devono toccare le menti e devono anche causare torto ai oppressori. La Chiesa, l'industria del sesso e il sistema patriarcale sono i tre nemici delle donne oggi. E contro di loro noi facciamo attacchi sessuali, e questo è il nostro centro, è qua che la rivoluzione va a ricominciare. Questo dunque le femmine, che sono sempre molto attive, e per la canzone che va con lei, con loro, prendo Crass, Bata Hotel del 81, che è una canzone libertina e che parla di un, vabbè, che potrebbe essere un flyer femminista. E, ecco, sentiamo. una fine cutta. Continuiamo in musica con The Slit, Typical Girl 79. Slit, che in questa canzone vuole distruggere gli stereotipi sessista, Slit punk avanguarda, dunque stereotipi sessisti come non creare, non ribellarti, solo avere intuizione e non guidare. Slit, Typical Girls. Parliamo della Tunisia, parliamo del Mali, in cui l'arrivo degli amici comunque ristringono per molto le libertà delle donne, in cui le donne reagiscono come quest'estate in Tunisia, in cui sono scese, dove sono scese in piazza numerose e anche numerosi, gridando la Tunisina è libera, fuori Jebali, il capo del governo. la in Mali, in cui l'invasione del nord Mali dagli islamici rende molto complicata la situazione delle donne, costrette a velarsi, per esempio, ma anche a lasciare i lavori e tutte le cose che comunque capitano in questi casi, donne che per lottare continuano a manifestare quasi quotidianamente, prendendo e ricevendo pietre, bastoni, incarcerazione e stupri. Non è che qui in Italia o in Europa non abbiamo i pretesti o le ragioni che siano religiosi contro le religioni, contro il sistema, contro le violenze, stupri che abbiamo mi sono persa. Dunque, anche qui avremo tante ragioni di scendere in piazza. Per concludere questa Megaphonics un po' caotica di oggi, mando Gigi Vadim Fest, Sarah Jones, Your Revolution 99. Your revolution will not happen between these thighs. Your revolution will not happen between these thighs. Your revolution will not happen between these thighs. Will not happen between these thighs. Will not happen between these thighs. The real revolution ain't about booty size, the Versaces you buys, or the Lexus you drives. And though we've lost Biggie Smalls, your notorious baby, your notorious revolution will never allow you to lace no lyrical douche in my bush. Your revolution will not be you killing me softly with Fuji. Your revolution ain't gonna knock me up without no ring and produce little future MCs. Because that revolution will not happen between these thighs. Your revolution will not find me in the backseat of a Jeep with LL hard as hell. You know, doing it and doing it and doing it well. You know, doing it and doing it and doing it well. Your revolution will not be you smacking it up, flipping it, or rubbing it down. Nor will it take you downtown or humping around. Because that revolution will not happen between these thighs. Your revolution will not have me singing, ain't no nigga like the one I got. Your revolution will not be you sending me for no drip drip VD shot. Your revolution will not involve me filling your nature rise or helping you fantasize. Because that revolution will not happen between these thighs. No, no, not between these thighs. Oh, my Jamaican brother, no, your revolution no, will not make you feel bombastic and really fantastic and have you groping in the dark for that rubber wrapped in plastic. You will not be touching your lips to my triple dip of French vanilla, butter pecan, chocolate deluxe, or having Akinelli's dream. A 6-foot blowjob machine. You wanna subjugate your queen. Think I'ma put it in my mouth just cause you made a few bucks. Please, brother, please. Your revolution will not be me tossing my weave and making believe I'm some caviar eating ghetto mafia clown. Or me giving up my behind just so I can get signed and maybe have somebody else write my rhymes. I'm Sarah Jones, not Foxy Brown. You know, I'm Sarah Jones. I'm Sarah not Jones, Foxy not Foxy Brown. And your revolution makes me wonder, where could we go? If we could drop the empty pursuit of props and the ego, we'd revolt back to our roots, use a little common sense on a quest to make love de la soul, no pretense. But your revolution will not be you flexing your little sex and status to express what you feel. Your revolution will not happen between these thighs, will not happen between these thighs, will not be you shaking and me faking between these thighs. Because the real revolution, that's right, I said the real revolution, you know, I'm talking about the revolution. When it comes, it's gonna be real, it's gonna be real, it's gonna be real. When it finally comes, that's right, when it finally comes, it's gonna be real. Yeah, yeah. Can you hear me? Ka zamana bitega re bitega. Fra pochissimi minuti o fra un po', vediamo, ci sarà l'agenda. Vi saluto e vi dico a fra due settimane. Rimanete con noi, tante cose oggi. جيبوا شباب وما قد البنات نطلع عالجنب للهوا ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día, nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonics, Megaphonics, Megaphonics, la música vista del cielo. Trasmissione musicale e geopoliticale. Aie bete, io ti no, in caro blizzisti mala, tanti per me ne ho fatti, ni quasi coiù dalla. Pour le même combat, on me vient tout unir.